E. Ascolta il dialogo e controlla se hai scritto le informazioni giuste. Piscina blu, buongiorno. Buongiorno. Posso avere alcune informazioni sui vostri corsi? Certo. Che tipo di corso vuole frequentare? La mia dottoressa consiglia di frequentare quel corso di ginnastica in acqua. Come si chiama? Ginnastica dolce. Sì, non è un corso molto faticoso, vero? No, signora, non è faticoso e fa molto bene. Quando ci sono le lezioni? Lunedì e giovedì. Quanto costa? L'iscrizione ad un corso di 8 lezioni è 45 euro. Ah, non è molto caro. Sì, il prezzo è buono. Allora inizio subito. Vengo domani. Bene, signora. Se preferisce, può fare una lezione di prova. Sì, è perfetto. Signora, prima di iscriversi, è necessario portare un certificato medico per l'attività sportiva. Deve chiedere al suo medico. Il certificato già ce l'ho. La mia dottoressa non vuole rivedermi mai più se non inizio a fare sport. Bene, allora a domani. A domani.